La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi e qualche secondo, qui in diretta dagli studi di Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino e vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi dico subito che la nostra mezz'oretta scarsa, ma è dedicata oggi a una giornata che per i lavoratori autonomi, stiamo parlando non dei piccoli imprenditori, ma dei lavoratori autonomi e professionisti, quindi tutti quelli che hanno ricadono insomma nell'articolo 2222 del codice civile, è una giornata molto importante. Adesso io dico per noi, siccome sono una partita IVA anch'io, lo sapete, non sono un lavoratore dipendente, ma è storica perché è storica, quindi è ovvio che parliamo a tutti oggi, ma soprattutto cerchiamo di spiegare a tutti e di raccogliere magari anche le vostre prime impressioni, sempre che abbiate avuto il tempo di informarvi, sull'approvazione che è definitiva proprio oggi, dopo più di un anno e mezzo di vai e vieni tra Camera e Senato, di un disegno di legge sul lavoro autonomo nei suoi 26 articoli comprende una batteria, per così dire, di riconoscimenti, di diritti, di norme, di principi a favore o comunque in materia di disciplina del lavoro autonomo, che è un po' il precipitato che la politica ci dà. La politica nel senso che è votato a maggioranza, era un disegno di legge che nasceva dal governo, né il voto però comunque è ampiamente bipartisan, ci sono i voti di Forza Italia, c'è l'astensione, non l'opposizione, dei 5 Stelle, e il precipitato di tantissimi anni di richieste che questi 2 milioni e rotti di lavoratori facevano per ottenere un passo avanti nel riconoscimento di diritti fondamentali rispetto al lavoro dipendente. Siccome tra l'altro con l'ex sottosegretario Nannicini del PD avevo un impegno preso, perché lui mi ha detto: ah, tu ti lamenti sempre che questa promessa non è mantenuta, però il giorno in cui la legge viene approvata ti devi impegnare a parlare in radio e a dare riconoscimento. Volentieri do riconoscimento a tutti coloro che hanno cooperato con questo disegno di legge, che diventa legge con il voto di oggi. Naturalmente ho anche alcuni punti sui quali non sono convinto, ma credo che, come è avvenuto nelle audizioni di tutte le associazioni delle imprese datoriali e del mondo delle professioni italiane, delle partite IVA e così via, è giusto riconoscere che su molti aspetti c'è un passo avanti. Allora, tentiamo ovviamente di capire su che cosa. La cosa importante, io comincerei dai diritti, è che su alcune questioni come la maternità e le malattie tutelate, vi ricordate quando con gli amici di ACTA iscritti alla gestione speciale separata c'era il caso della nostra amica freelance che è malata di cancro, non si vedeva riconosciuto il trattamento, era così nel nostro ordinamento. Ecco, adesso cose come queste sono riconosciute, ma per i congedi parentali, la maternità, ripeto, le malattie tutelate, la possibilità che le casse pensionistiche private e privatizzate si aprano anche a forme aggiuntive di welfare, non solo la previdenza, l'estensione dell'indennità di disoccupazione, cioè la DISCOL per alcune categorie. Ecco, c'è effettivamente un passo avanti significativo. Adesso vedremo come e quali. Non potremo parlare di tutto perché, ripeto, la legge è complessa, ci sono un mucchio di punti. Ci sono dei costi deducibili, anche strumentali, per lo svolgimento della propria professione, che vengono riconosciuti quindi in deduzione. Quelli per la formazione diventano deducibili pure quello, naturalmente non integralmente, ma comunque è un passo avanti. Ci sono dei diritti sulle forme di contratto rispetto al committente, E qui questo è uno dei punti che non mi piace troppo, perché secondo me sarà larghissimamente aggirabile sul il rifiuto da parte del committente di un contratto scritto, e la vedo difficile a quel punto davvero avere risarcimenti. Ci sono diritti, anch'essi secondo me facilmente aggirabili, sul limite dei 60 giorni di pagamento, quindi viene estesa la normativa europea anche ai lavoratori autonomi. Sapete meglio di me che è lo Stato il primo a non rispettarla, quindi comunque in teoria almeno c'è questo, c'è un'estensione con lo sportello dedicato per i lavoratori autonomi per quello che riguarda le politiche attive del lavoro, lo sportello nei centri per l'impiego. Insomma, ci sono effettivamente tante cose. Poi c'è una parte aggiuntiva, gli ultimi articoli di questo disegno di legge, che riguardano il cosiddetto lavoro agile, cioè il lavoro agile dipendente è quello che non è una nuova tipologia contrattuale, ma è una modalità di esecuzione delle prestazioni che si può applicare nel privato come nel pubblico, nel quale hanno un ruolo fondamentale gli strumenti tecnologici, quindi si disciplina, senza troppo appesantirla, devo dire, il fatto che si possano offrire prestazioni in quali locali delle aziende, le postazioni fisse, eccetera, eccetera, quindi con un largo utilizzo però dell'accordo tra le parti. Allora, queste sono alcune solo delle tante misure. Cominciamo a sentire allora qual è l'opinione tecnicamente molto più versata, fondata e competente della mia, del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che ringrazio di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Stella. Buon pomeriggio e grazie anche voi di aver chiamato. Grazie. Allora, ho detto qualche stupidaggine fino a questo momento? No, detto bene, anche perché effettivamente ci sono tante spunti molto interessanti inseriti nei vari articoli, per cui è difficile anche poterli commentare tutti quanti. Ma innanzitutto direi... cominciamo con una cosa, come mai ci sono voluti secondo lei decenni per arrivare a una cosa di questo genere? Ma innanzitutto diciamo un po' che il sistema professionale è stato messo in discussione inizialmente da direttive europee, almeno si è cominciato a parlare. Poi ci sono state delle prese di posizione per una riforma delle professioni che ha in un certo qual modo, non è stata fatta una riforma articolata, sono stati fatti dei pezzi, prima sono state eliminate le tariffe, poi si è intervenuto su alcune situazioni. È stato un po' frammentata le politiche. Poi le professioni, gli ordini, c'è chi può fare gli studi professionali con società di capitale, chi no, a seconda della sua forza in Parlamento, parliamoci chiaro, insomma. Esattamente, cioè è una forza molto frammentata anche quella delle professioni in Parlamento, ci sono molti professionisti, ma però poi alla fine non sono stati fatti interventi articolati, anzi poi sono capitati un momento tremendamente difficile dell'economia italiana che ha toccato anche gli studi professionali, per cui un po' le riforme che non sono state fatte bene, un po' diciamo la crisi economica ha messo in discussione un comparto economico, quello professionale, che rappresenta anzi il 12% del PIL, che dà occupazione a un milione di lavoratori, e quindi evidentemente poi a un certo momento è successo anche che non c'erano soltanto i professionisti iscritti agli ordini, ma il lavoro autonomo, che era molto importante, le partite IVA, tutti questi soggetti che erano privi di tutele e che erano effettivamente anche molto vessati da un fisco pesante, da una contribuzione alla gestione separata dell'INPS piuttosto pesante, che non dava assolutamente coperture di nessun genere, e quindi tutto questo movimento di questi soggetti hanno cominciato a far sentire la loro voce su vari... Guardi, come io comincio proprio da una cosa che mi ha colpito, perché io mi aspettavo, speravo, non mi aspettavo, perché non mi aspetto molto, ma anzi sono diventato un pessimista più in vecchio, ma però speravo che per esempio per gli autonomi, per quello che riguarda, lei ha toccato il fisco, no? Quindi è l'unico riferimento che vorrei fare al fisco, ma intanto ci tengo a farlo, ci fosse una norma chiara che precisasse che gli autonomi fossero esclusi dal pagamento dell'IRAP per assenza di autonoma organizzazione, perché qui noi viviamo in un sistema in cui ci sono le sentenze della giurisprudenza che hanno riconosciuto questa esclusione, hanno anche definito una serie di requisiti, però sentenza per sentenza, però non c'è nessuna norma che li abbia generalizzati, chiarendo quindi che l'assenza dell'autonoma organizzazione esenta dall'IRAP, e purtroppo mi sembra che a questo punto resta irrisolto nella legge. Resta irrisolto perché non è stato ben definito i contorni giuridici di questo aspetto, per cui ancora permangono delle situazioni non chiare. Ecco, adesso il problema è quello sicuramente anche dell'IRAP, ma diciamo che il fatto che poi ci siano stati professionisti, i lavoratori autonomi in questa situazione di difficoltà ha fatto sì che anche sono intervenute una serie di norme che hanno forfettizzato il reddito dei lavoratori autonomi, perché evidentemente cercando di venire incontro con degli strumenti più agili di determinazione del reddito che in precedenza non c'erano. Quindi diciamo che la protesta dei lavoratori autonomi è partita forse dal fisco, poi è partita dalla questione dei costi elevati della gestione separata dell'INPS. Direi che il rilievo molto importante da fare è che tutte le componenti dei lavoratori autonomi, e io aspetti, cito, per l'aumento dell'aliquota per la gestione separata resta però la delega aperta al governo. Resta la delega aperta al governo, comunque era ipotizzata, era arrivata al 30, era ipotizzata ancora in aumento e adesso perlomeno si è stata assestata sì, sul 27. Ci fanno restare sempre di anno in anno con il terrore col fiato sospeso, vero, col fiato sospeso, questo è vero, però diciamo che già qualche risultato è stato ottenuto sul campo. Quindi vuol dire che il fatto che le componenti, diciamo, del lavoro autonomo e professionale, Confprofessioni, Confassociazioni, ACTA e altre partecipazioni abbiano inteso fare un quadrato, diciamo, su queste tematiche, ha portato a far sentire meglio la voce, perché prima se ognuno parlava in modo frammentato e ognuno per conto suo, i risultati non li abbiamo ottenuti. Quindi da qui è partito un tavolo che ha fatto, diciamo che ha scosso anche il governo, che non è rimasto insensibile alle problematiche di questo settore e ha cercato invece di venire incontro, e quindi da qui è forse nato la prima ipotesi del DDL lavoro autonomo. Lei ha citato prima Nannicini, che sicuramente lo possiamo chiamare il padre. Io lo riconosco. È stato lui, soprattutto prima è partito con Del Conte e poi immediatamente Nannicini, che si è fatto carico di portare avanti le problematiche, ma in un confronto aperto con le rappresentanze professionali del lavoro autonomo, e che quindi ha consentito anche di mettere in ordine, diciamo, lo strumento, perché non sempre era facile capire esattamente quali erano le esigenze di questo mondo. Innanzitutto quello di vedere riconosciute, come diceva lei bene prima, le tutele, quelle indispensabili che riguardavano la malattia grave, la maternità, dove assolutamente prima non c'era nulla, la disoccupazione. Aspetti, ha citato la maternità, io ne approfitto per chiedere le cose, per spiegare a chi è a casa. Io lì c'è un punto che continuo a non capire, forse per ignoranza mia, perché per gli autonomi che prestano il loro, che svolgono insomma il loro servizio in maniera continuativa per un committente, nel testo c'è scritto, cioè è prevista la sospensione del rapporto contrattuale senza diritto di corrispettivo per un periodo che viene limitato, quindi questo è il vantaggio, non superiore ai 150 giorni per anno solare, però si fa salvo il diritto del committente a recedere. A me non sembra una grande tutela, sbaglio io? No, ma su quel punto lì noi proprio ci siamo intervenuti, perché in un primo tempo sembrava che ci dovesse essere il recesso e quindi il lavoratore si sarebbe trovato nella situazione di non vedersi corrisposto il compenso e di dover sospendere l'attività lavorativa. Ma abbiamo posto rimedio in questo senso, perché gli viene conservato comunque il contratto, perché rimane in vigore. Perfetto. Ma il committente può eventualmente rivolgersi ad altro soggetto per poter svolgere la prestazione che in quel caso non è in grado di svolgere, e chi è nel rapporto di maternità. Che in maternità, non so se mi spiego. Quindi si è cercato di porre rimedio e di verificare anche situazioni nelle quali il lavoratore evidentemente si trovava in difficoltà anche per una questione economica nei confronti del suo committente. Mentre ci sono poi riconoscimenti molto importanti, perché per esempio che ci sia finalmente sia riconosciuta la moratoria contribuita se uno si ammala di una patologia grave o un gravissimo infortunio e sia riconosciuto il diritto che a quel punto, siccome significa anche riconoscere il diritto che magari non puoi svolgere l'attività fino per più di 2 mesi, però sospendere la contribuzione previdenziale assicurativa fino a 2 anni, se non ricordo male, anche questo è un riconoscimento, perché prima non c'era questa facoltà. Esattamente, anche questo diciamo che è un atto di grande importanza, perché vuol dire che tiene in considerazione le difficoltà che uno ha nel momento in cui non lavora, non produce reddito, e quindi di sospendere il pagamento dei contributi relativamente appunto all'attività che svolge. Che cosa si poteva fare meglio secondo voi? Ma qualche cosa forse si poteva fare di più obiettivamente, però infatti noi a un certo punto, proprio nel timore che dicevamo prima che questo disegno di legge non passasse, ci siamo fermati e abbiamo preferito non insistere su altre richieste, perché evidentemente il timore... Perché altrimenti si faceva il vai e vieni chissà per quanti anni, no? Condivido. Esatto. Allora è stata fatta una scelta di accettare questo che era già un grande passo avanti. Cioè, per esempio, si poteva riconoscere di più che le professioni in Italia possono essere svolte. Per esempio, c'è stato anche una cosa in più, che è stata l'apertura dei bandi aperti anche ai professionisti che svolgono prestazioni di servizi. Quindi i bandi pubblici prima erano a vantaggio solo delle imprese, oggi possono invece accedere anche i professionisti. I bandi europei, che quello c'era già una norma transitoria che prevedeva per il 2014-2020, invece adesso è stata posta a regime, quindi da ora in poi i professionisti hanno diritto di accedere ai fondi europei alla pari delle piccole e medie imprese o delle imprese, anche questo è un grande passo avanti. Nel caso di appalti pubblici si dice la norma che si può fare anche contratti di rete tra professionisti e imprese. Ecco, sempre di più direi che il mondo del lavoro autonomo, del lavoro professionale, si svolge anche con modalità diverse, certo, rispetto a quelle canoniche iniziali. Quindi, non so, prevedere i contratti di rete a regime potrebbe essere un'opportunità in più riservata al lavoro autonomo e professionale, oppure le società di capitali, perché per esempio è passata adesso la norma nel decreto legge sulla concorrenza aperta alle società di capitali per avvocati, ma gli altri professionisti viene impedita questa possibilità. Quindi qui si poteva anche fare questa ulteriore apertura anche a questi soggetti. Vabbè, non mancherà il tempo, però intanto portiamo a casa questo. E io devo dire, ringrazio ovviamente Confprofessioni insieme a tutte le altre associazioni che in questi anni si sono battute. Mi rendo conto, tanti ascoltatori dicono vabbè, ma riguarda solo i lavoratori autonomi. Riguarda solo i lavoratori autonomi, ma erano esclusi dalle tutele, signori. Cioè, io ogni 1° maggio tweetavo, no, festeggiatelo voi, perché io come lavoratore autonomo sono fuori. E tutti mi rispondevano dicendo la solita storia, siete evasori. No ragazzi, non c'erano diritti, capite? Diritti fondamentali, malattie, maternità, congedi di paternità, impegni ai termini di pagamento, come se partecipare alle gare pubbliche. Cioè, stiamo parlando dell'ABC e non c'era questa roba qui. Intanto grazie a Gaetano Stella. Adesso abbiamo 1 minuto di informazione sul traffico e poi è con noi Anna Soru, presidente di ACTA. Li abbiamo avuti ospiti in questi anni più e più volte, di solito sempre quando si avvicinava al rischio di un aumento della contribuzione alla gestione separata, e adesso vediamo come la pensano loro su questa legge approvata oggi. La versione di Oscar. Allora, rapido piluccare tra i tantissimi messaggi. Ce n'è uno in particolare che a raffica dice: giornalisti prezzi di Radio 24 imparate da De Bortoli. Caro ascoltatore, se mi avessi sentito, non sei tenuto a farlo, ma comunque te lo dico. Ieri mattina, prima che esplodessero le cose sui giornali, con la trasmissione con Alessandro Mia, attenti noi due, tutte le mattine siamo lì alle 8:20, compreso domani mattina naturalmente. Io ho già detto come la penso e l'ho ripetuto anche questa mattina. Conosco Ferruccio De Bortoli da tanti anni, ho sempre solo imparato. Se ha scritto quello che ha scritto, so che ha fonti certe, perché di certo non è un propalatore di fango. Si vedrà in tribunale, questo lo capisco, ma io lo considero un maestro di dirittura professionale e ne ho una stima assoluta in termini personali. Non significa che dobbiamo credere alla sua parola. Io credo al fatto che, per come ci ha mostrato negli anni da direttore ma da giornalista prima come si fa questo mestiere, io tante volte, siccome ho anche un rapporto personale con lui di cui sono onorato e che non merito, gli ho sentito dire di cose che era meglio non scrivere perché non si era certi. Una cosa posso escludere: che una cosa di questa delicatezza lui la scriva senza averne piena contezza. Poi si vedrà al tribunale, quello che volete. La politica non è la mia, una polemica politica, ma su Ferruccio De Bortoli personalmente ho motivi personali per aver visto negli anni come svolge questa professione, pagandone prezzi come capita poi per esercitare il libero, informato diritto di critica. Tanti altri autonomi, che abbraccio tutti, dicono, mi fanno esempi degli ostacoli posti dallo Stato. Ce n'è uno in particolare che abbraccio: lavoratore autonomo, gestione separata, operato di cancro, 6 mesi di chemio, supporto a qualunque titolo 0. Ecco, tanti altri che dicono: ma come, Giannino, tu vuoi levare tutti i diritti ai lavoratori dipendenti e adesso brindi per gli autonomi? Io non voglio levare nessuno tutti i diritti ai lavoratori dipendenti. Ma quando mai mi avete sentito dire che voglio levare i diritti? Io sono più a favore di una flessibilità di contratti in deroga a quelli nazionali, quello che volete voi. Ma il problema è che i lavoratori dipendenti avevano un corpo di diritti stratificato pluridecennale, gli autonomi zero. Non so se vi è chiaro la differenza. Tutto qui. Allora, ci ha raggiunto Anna Soru, l'avevo annunciata prima, il presidente di ACTA, l'associazione dei consulenti del terziario avanzato. Tante volte abbiamo fatto la battaglia contro l'aumento del contributo annuale ogni anno in legge di bilancio. Grazie di essere con noi, di quello che avete fatto in questi anni per i freelance e non solo. Qual è il giudizio che date alla legge che viene approvata oggi? Anna Soru, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Il giudizio è sicuramente positivo. Abbiamo voluta, fortemente voluta questa legge, quindi siamo contenta che sia stata approvata. Naturalmente da domani faremo delle altre richieste. Oh. Però intanto per oggi festeggiamo questa legge. Quali sono i punti su cui, come ho finito prima con Gaetano Stella chiedendo, i punti su cui si poteva fare meglio ancora aperti, in particolare per quelli che rappresentate voi? Direi soprattutto la malattia. La malattia, ci aspettavamo una definizione più estesa di malattia grave, che è un pochino ristretta nella definizione, e poi avremmo voluto allargare la possibilità di accesso, quindi anche a chi magari non ha versato i contributi negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma ha un passato diversamente contributivi. Perché il problema è che l'identificazione del periodo temporale dei 12 mesi di versamento contributivo per avere accesso poi al sostegno della legge e sembra un po' ignorare che c'è gente che negli ultimi anni ha visto lunghissimi mesi a zero lavoro e zero redditi, e quindi conversamente diventa difficile. È un po' questo il punto, no? È un po' questo, un po' perché abbiamo visto che spesso le sfortune non arrivano da sole, esatto. No? Quindi magari insieme alla disoccupazione arriva anche la malattia grave. E quindi però uno magari ha versato 20 anni di contributi e si ritrova a non accedere a niente. Quindi vorremmo allargare un po' questa estensione. E anche sulla maternità, anche qui vorremmo una maggiore estensione. Anche secondo me la norma sulla maternità è, gliel'ho già detto prima, non mi convince però. Sì, sì, no, non tanto quella che lei ha citato, che è quella praticamente senza valore. Esatto. Però proprio l'accesso alla maternità vorremmo che fosse garantito a tutte, anche a chi ha versato molto poco e anche con dei minimi di indennità, perché spesso adesso abbiamo delle giovani neomamme che prendono veramente delle indennità irrisorie. Perché il principio, cari ascoltatori, è che con la demografia che ci troviamo, il sostegno, il welfare nemico della famiglia in generale, voi capite che se essere una lavoratrice autonoma significa vedersi negato anche l'accesso al sostegno per la maternità, insomma, c'è un principio generale che viene prima della specificità del tipo di lavoro. Si fa un passetto avanti, ma in realtà la piena parificazione. Però contiamo sulla delega, contiamo che sulla delega e anche sul tavolo permanente sul lavoro che verrà aperto presso Ministro del Tesoro, e questi sono temi che porteremo avanti in quella sede. Cioè, allora, grazie e naturalmente ti richiameremo, Anna. Perdonate, lavoratori dipendenti, ma secondo me dovreste essere più contenti anche voi che il mondo non sia più asimmetrico. Questo è anche un impegno tutti ad avere uguali doveri, ma gli uguali doveri c'erano, anche se ovviamente senza sostituto d'imposta, e lo so come la pensate. Un po' di diritti meno diseguali da oggi ci sono, un po'. Qualcosa, accontentiamoci. Appuntamento domani alle 8:20 con me, Alessandro Milano, attenti noi due.